Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, un buongiorno da Giampaolo Musumeci, da Valeria Coffaro che è in redazione a confezionare il programma con me, dalla regia dove c'è Fabio Cantadori. Oggi vi racconto una guerra silenziosa che si combatte da anni, una guerra strisciante che coinvolge 300 milioni di persone, stati, eserciti in mezzo mondo, una guerra che si combatte a suon di trattati, accordi, alleanze, dispute. Una guerra che goccia dopo goccia minaccia di sconvolgere gli equilibri geopolitici così come li abbiamo conosciuti finora. La guerra dell'acqua, della gestione delle risorse idriche. Laghi e fiumi hanno permesso la nascita di grandi civiltà. Laghi e fiumi sono vita per milioni di persone, ma possono essere anche motivo di grandi conflitti. Di questo parliamo oggi a Nessun Luogo è Lontano. Le coordinate per interagire con noi. SMS se avete suggerimenti, domande o commenti condensati in 160 caratteri. 349-238-6666. Ci trovate la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano, oppure potete scrivere un'email a nessunluogo@radio24.it. Ma siccome Nessun Luogo è Lontano, io vi porto lì dove nasce il Nilo e lì dove è la fonte della grande diatriba. As you know, we started negotiating about 10 years ago in 1997. We were negotiating to come up with an acceptable Nile Basin Cooperative Framework that is negotiated by all independent and the sovereign states of the Nile River Basin. 86% of the water flows from the Nile flows from Ethiopia, and so they are right to be frightened. It is maybe a challenge, but it's not a problem. And you know, if life is full of challenges, and the challenges move us, motivate us. I politici dei diversi paesi africani coinvolti discutono, la questione è spinosa, in ballo c'è la gestione delle acque. In buona sostanza due sono gli schieramenti, Egitto e Sudan da una parte e i paesi a sud dall'altra parte. Intanto do il mio benvenuto, il mio buongiorno a Federica Zoia. Buongiorno. Buongiorno Federica, allora giornalista, collega, esperta di mondo arabo e che frequenta spesso e volentieri l'Egitto e il Cairo, con te cercheremo di fare il punto sullo stato dell'arte. Allora, io ho accennato in massima sintesi a quelli che sono gli schieramenti, ma aiutaci a capire meglio quali sono sinteticamente i soggetti in gioco. Allora, diciamo che per i paesi della cosiddetta iniziativa del bacino del Nilo, che è stata creata in Tanzania nel 99, questi ultimi 10 anni di trattative e di accordi non hanno portato ancora ad una equa ripartizione dei diritti e lo sfruttamento, cioè in vigore c'è ancora un accordo siglato nel 29 sotto il dominio inglese, al quale poi si è sovrapposto un accordo bilaterale fra Sudan ed Egitto. Quindi sono questi due paesi a sfruttare la maggioranza dei metri cubi delle acque del Nilo, e fino a questo momento gli altri paesi, cioè Ruanda, Burundi, Tanzania, Uganda, il bacino che include la Repubblica Democratica del Congo, il Kenya, l'Etiopia e l'Eritrea, non hanno mai rivendicato lo sfruttamento delle acque. Allora Federica, ti interrompo perché facciamo chiarezza, ci sono tanti attori in gioco e ci sono dei numeri, ascoltiamo insieme. Il bacino del fiume Nilo copre un'area di circa 3 milioni di chilometri quadrati, equivalente al 10% circa del continente africano. Egitto, Sudan, Eritrea, Etiopia, Burundi, Uganda, Ruanda, Repubblica Democratica del Congo, Kenya e Tanzania sono i 10 paesi percorsi dalle acque del fiume, 9 dei quali tra i più poveri del mondo. Ma nonostante le acque del Nilo costituiscano un enorme potenziale di sviluppo, l'incapacità di pianificare un adeguato sfruttamento congiunto delle acque e di raggiungere accordi per la divisione dei benefici ha impedito agli abitanti dell'area di beneficiare di questa eccezionale risorsa. Il nodo della discordia è costituito da due trattati, il primo del 1929 e il secondo del 1956, che di fatto assicurano a Egitto e Sudan il 94% dell'intero flusso del Nilo, lasciando ai paesi che si trovano più a monte verso le sorgenti appena il 6%. La creazione nel 1999 dell'iniziativa del bacino del Nilo, progetto finanziato dalla Banca Mondiale per il raggiungimento di un accordo condiviso, per ora si è rivelato fallimentare. E stesso epilogo ha avuto l'incontro del maggio scorso per la firma di un protocollo d'intesa sull'acqua del Nilo che è stato disertato dai principali protagonisti. Allora Federica, questi gli attori in gioco e i numeri del bacino del Nilo, già lo avevi accennato tu, gli attori fondamentali sono Egitto, Sudan e Etiopia. Che ruolo ha l'Egitto? Fino adesso, come dire, ha mostrato i muscoli, no? Ha avuto un comportamento piuttosto arrogante. Esatto, ha mostrato i muscoli perché la questione delle acque del Nilo è di vitale importanza per l'Egitto. Teniamo presente che si tratta di un paese di già 80 milioni di abitanti che cresce ad un ritmo di un milione e mezzo l'anno e che già ora, pur sfruttando le acque del Nilo che rappresentano il 90% del suo fabbisogno idrico, ha dei problemi di gestione di queste acque, quindi non può rinunciare neanche ad una goccia delle acque del Nilo. Ora la situazione è complessa perché nei prossimi mesi potrebbero peggiorare le cose, cioè il Cairo osserva con attenzione il Sudan, ci sarà un referendum nel mese di gennaio del 2011 che dovrebbe sancire l'indipendenza del Sud Sudan e non è scontato che il nuovo governo del Sud Sudan ratifichi gli accordi precedenti sullo sfruttamento delle acque del Nilo. Quindi, ti interrompo Federica per fare un piccolo inciso, se il Sud Sudan ottiene l'indipendenza dal Sudan si va a creare un undicesimo soggetto che in questo gioco insomma va a giocare un ruolo importante. Certo, un ruolo importante e si tratta anche di un'area molto svantaggiata che sicuramente punterà sulle acque del Nilo per rilanciare l'agricoltura, l'economia nazionale, quindi ci si aspetta l'ingresso di un paese agguerrito nello sfruttamento delle acque del Nilo. Sì. In tutto ciò l'Etiopia che ruolo sta giocando? L'Etiopia è sicuramente il paese emergente nell'area perché da paese deficitario di risorse idriche ed energetiche in questo momento è diventato un polo di attrazione di interessi internazionali, quindi la Cina in primo luogo ma anche gli Stati Uniti ed Israele stanno investendo nella costruzione di dighe e nell'arco di un decennio probabilmente l'Etiopia potrà anche vendere energia idroelettrica nell'area. Fino a questo momento il governo nazionale ha garantito al Cairo che non sfrutterà per l'irrigazione dei campi le acque del Nilo, ma insomma è poco probabile che poi non vengano utilizzate le acque idroelettriche per cercare di alleviare la siccità terribile che da sempre patisce l'Etiopia. Quindi sì. Per l'Egitto è una situazione molto difficile. Allora, hai citato il ruolo dell'Etiopia e il ruolo degli Stati Uniti. Proprio l'Etiopia ha chiamato gli Stati Uniti a giocare un maggiore ruolo nel risolvere la controversia del bacino del Nilo, ne dà notizia pochi giorni fa il Sudan Tribune, uno dei maggiori quotidiani sudanesi. Do il mio benvenuto a Eugenia Ferragini, professoressa, geografa e del CNR di Napoli. Buongiorno professoressa Ferragina. Professoressa Ferragina, buongiorno. Buongiorno, la sento abbastanza male, se può alzare la voce è meglio. Eccoci, allora vediamo se ci sentiamo, se no proviamo a ristabilire il collegamento. Allora, abbiamo fatto un po' quello che è lo stato dell'arte nel bacino del Nilo, abbiamo capito che ci sono fondamentalmente, sono 10 attori in gioco, ma gli schieramenti sono due, da una parte c'è Egitto e Sudan, dall'altra c'è l'Etiopia e poi tutti gli altri paesi. Professoressa, è possibile stabilire chi ha ragione? C'è il corso del Nilo che nasce lì nella zona dei Grandi Laghi e poi scorre a nord fino al Mediterraneo, di chi è questo Nilo, di chi è quest'acqua? Pronto? Professoressa Ferragina, non mi sente? No. Allora, diciamo che ho perso di aver colto la domanda che lei mi faceva riguardo alle ragioni poi dei paesi coinvolti in questa contesa per l'acqua. La domanda precisa, professoressa, è chi ha ragione? L'acqua del Nilo è di qualcuno? Il fatto che scorra per lunga parte del suo corso nell'Egitto fa sì che l'Egitto possa dire il Nilo è mio? Il fatto no. che nasca in Uganda, l'Uganda può dire il Nilo è mio? Come funziona? No, in realtà nessuno può dire che un corso d'acqua internazionale, quale è riconosciuto il bacino del Nilo, a 10 paesi e che appartiene quindi a tutti gli attori del bacino, quindi a tutti i paesi corrivieraschi del bacino. L'Egitto ha sicuramente un vantaggio che non è di posizione, perché l'Egitto è il l'ultimo paese, quindi non è il paese a monte ma è il paese a valle, ma quindi nonostante non abbia un vantaggio di posizione, cioè non sia il paese in cui nascono i due bracci del Nilo, il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro, è però il paese che storicamente ha maggiormente sfruttato questo fiume. Naturalmente questo diritto storico ha anche avuto origine dai rapporti di forza che esistevano all'interno del bacino. Sicuramente l'Egitto è stato il paese con più potere e anche con più possibilità di realizzare grandi progetti. Attualmente la ragione non è più dell'Egitto, ma esistono delle ragioni degli altri paesi corrivieraschi che hanno molto perso, hanno sfruttato poco il corso di questo fiume e che oggi rivendicano un diritto a sfruttare quest'acqua ai fini dello sviluppo di energia idroelettrica, dello sviluppo irriguo, e che vantano uguali diritti dell'Egitto naturalmente. Ecco, il primo paese che ha alzato in qualche modo la testa in maniera vigorosa è stata la Tanzania all'inizio del 2004, però poi insomma a ruota i paesi dove nasce il Nilo si sono in qualche modo accodati, perché l'atteggiamento arrogante, l'atteggiamento muscolare, come abbiamo detto, dell'Egitto toglie loro delle possibilità anche economiche. Il Nilo non è una cosa sola, nasce e ha una sua morfologia, una sua potenza, una sua forza, poi scorre verso il Mediterraneo e diventa un'altra cosa. Professoressa, che cosa vuol dire che l'irrigazione o l'energia idroelettrica vanno, come dire, sfruttate in punti diversi? Ma diciamo che i paesi della fascia equatoriale, che sono quelli che tradizionalmente hanno meno sfruttato il corso del Nilo perché avevano meno bisogno di dare alla propria agricoltura acqua, perché godevano già di un regime pluviometrico che consentiva un'agricoltura senza irrigazione. Naturalmente questi paesi hanno però altri tipi di esigenze legate allo sfruttamento del Nilo, e in particolare hanno l'esigenza di creare delle dighe per la produzione di energia idroelettrica. Parliamo di paesi molto poveri, parliamo di paesi che hanno bisogno di elettrificazione, sia quindi nelle aree urbane e rurali, sia di elettricità per sviluppare un tessuto industriale. Chiaramente queste sono le esigenze principali da parte dei paesi della fascia equatoriale. Diverso il discorso per il Sudan e l'Etiopia, che invece, così come l'Egitto, fanno i conti con una popolazione in forte crescita, quindi con un forte livello di crescita demografica, e con la necessità quindi di aumentare le aree irrigue per aumentare la produzione agricola e far tenere in qualche modo soddisfare un fabbisogno alimentare che negli ultimi anni si è cresciuto non solo perché è cresciuta la popolazione, ma anche perché naturalmente il quadro climatico globale si sta alterando e quindi il livello di aridità anche all'interno di questi paesi sta aumentando, quindi le integrazioni idriche per realizzare l'agricoltura sono sempre più importanti. Federica Zoia, la professoressa Ferragina ha toccato uno dei punti forse fondamentali, che è l'elemento demografico, cioè una popolazione che cresce e che quindi ha sete. L'Egitto da questo punto di vista, pur avendo un bel pezzo di Nilo, no? E anche storicamente avendo sempre goduto del Nilo, in realtà è un paese assetato da questo punto di vista? Sì, è un paese assetato proprio in ragione del fatto che la popolazione cresce con un ritmo serrato. E stiamo parlando di 80 milioni di persone, un milione e mezzo di persone in più ogni anno. Un territorio altamente desertico, quindi la popolazione si concentra intorno all'area del Nilo e sempre più verso l'alto, verso il Cairo, quindi il problema è molto forte. Si cercano, oltre alle acque del Nilo, anche delle strade percorribili alternative, quindi falde freatiche sotterranee, la possibilità di desalinizzare l'acqua del mare. È ovvio che per l'Egitto si tratta forse del primo problema in questo momento, anche se la situazione politica, la transizione fra quella che è la presidenza Mubarak, che probabilmente volge al termine, distrae un po' le energie del paese da questo problema imminente. Ecco, quanto la questione dell'acqua incide nell'equilibrio anche politico interno di un paese come l'Egitto, che tanto incide anche sul Mediterraneo, eccetera, eccetera? Internamente sì. il problema è talmente sentito che non c'è maggioranza né opposizione, almeno sulla questione del Nilo. Quando si è parlato di quest'ultimo accordo che ha escluso l'Egitto nel mese di maggio, il governo è stato supportato in pieno anche dall'opposizione, cioè questo è il primo problema da risolvere. Sul piano poi dell'area, della regione, bisogna fare in fretta, perché l'Egitto sicuramente negli ultimi anni è stato più arabo che africano e quindi forse ha perso un po' di vista gli accordi che si stavano facendo intorno a lui. Grazie Federica Zoia per la tua lettura precisa e puntuale. Poi ancora su Radio 24, Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. E la guerra che si combatte goccia dopo goccia nel bacino del Nilo è soltanto una delle tante dispute che nel mondo si hanno a proposito delle risorse idriche. Di questo stiamo parlando oggi a Nessun Luogo Lontano, qui su Radio 24, 349-238-6666 se avete domande, commenti o suggestioni in 160 caratteri, oppure nessunluogo@radio24.it per le mail e su Facebook Nessun Luogo è Lontano. Io torno dalla professoressa Ferragina perché... Vediamo se riusciamo a smontare intanto questo slogan, guerra dell'acqua, è una riduzione giornalistica, perché in realtà guerre vere dell'acqua non si sono mai combattute, o mi sbaglio? Ma diciamo che sì, questa formula molto usata, ma non soltanto in chiave giornalistica, ci sono, potrei citarle anche i libri, che, gli esperti che hanno parlato appunto di guerre per l'acqua. In realtà, soprattutto negli ultimi anni, gran parte degli analisti, degli esperti, tendono molto a ridimensionare questo concetto di guerre per l'acqua, perché poi effettivamente, come lei ha detto, nessuna guerra è scoppiata esclusivamente per il controllo di una fonte idrica. Rimane un dato, che tra l'altro è un dato forse destinato a diventare sempre più importante nei prossimi anni, è che l'acqua è un amplificatore di conflitti. Cioè lei dice, nel momento in cui esiste già una tensione, una frizione per motivi economici o motivi di altro tipo, se si innesta il meccanismo delle risorse idriche, allora a quel punto c'è l'esplosione del conflitto. Anche perché spesso il controllo dell'acqua è indissolubilmente legato al controllo della terra. Il caso emblematico è proprio quello dei territori palestinesi, no? Gaza e Cisgiordania, contese tra appunto la popolazione palestinese occupata da Israele, sono un caso di come l'acqua, in particolare queste falde acquifere che si trovano appunto in Palestina, queste falde acquifere di montagna che sono molto ricche, sono fondamentali nel bilancio idrico di Israele, e il controllo della terra da parte di Israele richiede anche il controllo delle fonti idriche. Questa chiave di lettura è molto interessante, è una lente che ci permette magari di leggere certi conflitti in maniera diversa e si lega, mi permetto di aggiungere, quella demografica, che è strettamente collegata, che fra l'altro è una delle chiavi per leggere il conflitto israelo-palestinese. Esisteranno in futuro queste guerre dell'acqua o, come dire, rimarranno confinate nella loro funzione di volano o di amplificatore di conflitti? Diciamo che rimarrà un fattore di amplificazione, cioè un detonatore di conflitti, e purtroppo questa dimensione conflittuale legata all'acqua e al controllo delle fonti idriche è destinata a crescersi nei prossimi anni, perché chiaramente, come dicevamo già, come già accennavamo prima, il cambiamento del quadro climatico globale fa sì che in aree già molto aride, in cui la possibilità di praticare l'agricoltura e di soddisfare il fabbisogno idrico delle popolazioni dipende appunto dall'acqua, quindi la qualità della vita, l'agricoltura, il fabbisogno alimentare dipende dall'acqua, in una situazione in cui l'acqua diventa sempre più scarsa, perché il quadro climatico si altera, perché le precipitazioni diventano sempre più scarse, perché la temperatura che si eleva provoca quindi una crescita anche dell'evapotraspirazione, quindi l'evaporazione dell'acqua che viene somministrata alle colture. Quindi chiaramente nei prossimi anni dobbiamo aspettarci un ruolo importante dell'acqua quale elemento di conflittualità, come d'altra parte già si sta verificando nel Mediterraneo e anche in altre parti del mondo. Cioè più il clima diventa arido, più l'acqua diventa una risorsa strategica fondamentale e quindi una fonte di contesa. Risorsa strategica fondamentale, ne abbiamo parlato andando in Africa, lì nel bacino del Nilo, ma c'è un altro contenzioso, un'altra guerra dell'acqua che si sta per combattere in Turchia. Thank you. eşime hepimize sesleniyor. Deva bul bu derde, gel beni kurtar diyor. Anche la voce della pop star Tarkan si è schierata in Turchia contro la costruzione di una diga, la diga di Ilisu, meglio nota come la diga della discordia. La diga dovrebbe andare a formare uno dei più grandi complessi idroelettrici del mondo. Ci racconta tutto e meglio Marta Ottaviani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Marta, la pietra dello scandalo è una pietra in cui, intanto, la cui posa non è stata ancora fatta perché viene rimandata da alcuni anni. Siamo a Hasan Keyf, correggimi se sbaglio la pronuncia turco-curda. Esatto, siamo ad Hasan Keyf, a pochi chilometri dal confine con la Siria e con l'Iraq, che sono poi due stati con cui la Turchia potrebbe presto litigare, proprio a proposito della diga Ilisu, che divide non solo dentro i confini nazionali ma anche fuori. Dentro i confini nazionali perché c'è il governo islamico moderato guidato da Recep Tayyip Erdogan, che è assolutamente interessato e determinato a realizzare questo sbarramento, che devierà, diciamo, il corso del fiume Tigri e andrà a sommergere completamente il sito archeologico di Hasan Keyf. Ma dall'altra parte ci sono anche Iraq molto preoccupati, perché chiaramente la deviazione del fiume Tigri avrebbe delle ripercussioni molto serie anche sulla portata di acqua che poi appunto va a scorrere nei loro territori. Ecco Marta, questo sito Hasan Keyf è un villaggio curdo, un sito millenario che potrebbe essere sommerso da 30 metri di acqua, un villaggio di 12.000 anni fa. Per cui, l'hai già accennato, questo ha provocato levate di scudi degli ambientalisti, degli storici, dei curdi chiaramente e dell'opposizione interna. Su tutto ciò c'è lo sfondo delle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. Allora qui, diciamo, torniamo al punto che toccava la professoressa Ferragina nella prima parte della trasmissione, come l'acqua possa essere un motivo di detonazione politica. Come la vedi? Assolutamente, anche perché il progetto di Hasan Keyf, la diga Ilisu, rientra nel più ampio progetto GAP, che prevede, pensate, la costruzione di ben 200 sbarramenti di acqua in Turchia, ed è un progetto che rappresenta una delle armi politiche, uno dei fiori all'occhiello principali dell'attuale governo islamico moderato, che dice grazie al GAP, grazie a questi sbarramenti si creerà maggiore ricchezza nel sud-est del paese, che al momento è la parte della Turchia che risente maggiormente delle condizioni di povertà e anche della guerriglia del PKK, il quale però ha minacciato di farli saltare tutti questi sbarramenti nel caso in cui dovessero venire costruiti, a sottolineare quello che diceva la professoressa prima, che l'acqua molto spesso può anche fare da detonatore in conflitti già preesistenti. Professoressa, io ritorno con la domanda di prima. In questo caso, chi è che ha ragione? Allora, c'è un fiume che vuole essere bloccato, un fiume che poi, insomma, finisce in altri paesi. La Turchia può arrogarsi il diritto di decidere del corso del fiume e andare poi a toccare Siria o Giordania o altri paesi? Diciamo che da questo punto di vista la Turchia si espone alla condanna della comunità internazionale, perché il Tigre e l'Eufrate, anche qui parliamo di fiumi internazionali che interessano tre paesi, appunto la Turchia, la Siria e l'Iraq. Naturalmente, come diceva prima il commento sul grande progetto GAP, il GAP è il più grande progetto di valorizzazione idrica attualmente in corso nel Mediterraneo, che coinvolge non solo il Tigri ma coinvolge tutti e due i fiumi, quindi il Tigri e l'Eufrate. Sì. Con un sistema di non solo di sbarramenti ma di dighe, cioè il progetto originario prevede la costruzione di 22 grandi dighe e 18 stazioni per la produzione dell'energia idroelettrica, quindi un controllo totale sul corso di questi due grandi fiumi medio orientali, che una volta completato, e siamo già in una fase avanzata comunque di realizzazione del progetto, perché il progetto in realtà è incominciato negli anni 80, quindi la Turchia lo sta portando avanti in maniera molto decisa, a dispetto di una serie di lamentele internazionali, di appelli, di mobilitazioni che tanto la Siria quanto l'Iraq hanno intrapreso negli ultimi anni. Professoressa, a che cosa servono il Tigri e l'Eufrate? Agricoltura, energia? Il progetto progetto GAP è un progetto che si molto interessante, anche molto studiato per questo, almeno per noi che ci occupiamo di acqua, perché è un progetto che ha differenti chiavi di lettura e, come sempre capita per l'acqua, ha un livello strategico interno molto importante, perché è quello che consentirà alla Turchia di aumentare enormemente le superfici irrigue, aumentare enormemente la produzione e quindi rafforzare il ruolo di grande esportatore di prodotti ortofrutticoli sui mercati internazionali, soprattutto verso l'Europa, cosa che la Turchia già di fatto è, cioè la Turchia è la grande potenza agricola nel Mediterraneo. Quindi da una parte il progetto è destinato a rafforzare questo ruolo importante della Turchia come esportatore di prodotti agricoli non solo in Europa, ma pensi anche un po' a tutti i mercati medio orientali, tutti i mercati in generale dei paesi arabi che sono paesi afflitti da un forte deficit agroalimentare. Quindi questa è la prima valenza strategica importante. La seconda è quella che anche veniva accennata, sviluppare il sud-est anatolico, che è la zona, mi scusi, meno sviluppata del paese e della zona quindi con livelli di disoccupazione, con indici umani di sviluppo molto bassi, e quindi la volontà da parte della Turchia è quello di sviluppare un'area depressa. Nello stesso tempo, sviluppando quest'area depressa, l'obiettivo è anche sempre politico, interno, ed è quello di indebolire il PKK. E qua veniamo, come dire, a temi scottanti, perché i guerriglieri del PKK sono non solo attivi, ma hanno ingaggiato anche di recente con le truppe turche. Marta Ottaviani, e il PKK dice: ok, se voi posizionate la pietra e costruite la diga, io ve la faccio saltare. Detto ciò, com'è possibile ipotizzare un equilibrio senza che si arrivi allo scontro aperto? Che cosa farà il PKK? Ma, oddio mio, l'equilibrio è sempre più precario, anche perché il PKK, come sottolineavi tu pochi momenti fa, proprio nelle ultime settimane ha ripreso a sparare anche con una certa violenza sul confine, indipendentemente dalla costruzione della diga Izu. E alle spalle c'è anche comunque una politica di riconciliazione fallita da parte dell'esecutivo islamico moderato, che ha cercato di trovare una roadmap per dare più diritti alla minoranza curda nell'est del paese e quindi automaticamente indebolire il PKK, ma ha fallito miserrimamente con questa politica. Il risultato è che oggi, proprio nel sud-est del paese, che prima votava Erdogan, il partito curdo, che con l'esecutivo islamico moderato ormai ha veramente poco a che vedere, sta aumentando i suoi consensi. E quindi questo, in vista delle elezioni presidenziali dell'anno prossimo, potrebbe, come dire, cambiare lo scenario turco. Grazie a Marta Ottaviani per la sua analisi. Ci risentiamo sicuramente da qui alla fine di agosto. Intanto le informazioni sul traffico e poi torniamo. Nessun luogo è lontano. Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. La cosiddetta guerra dell'acqua, l'ultima goccia, goccia dopo goccia, si consumano diatribe, si aprono contenziosi. Professoressa Ferragina, è possibile ipotizzare un ruolo dell'acqua non solo come elemento di destabilizzazione, ma al contrario, come elemento di cooperazione, come elemento di unione, di coesione tra i paesi? Sì, credo che tra l'altro molte analisi, tra cui anche cose che ho scritto negli anni, sottolineavano più la valenza, diciamo, positiva, cooperativa, cioè l'acqua non più come volano di conflitto, ma come volano di cooperazione. D'altra parte, se è vero che il cambiamento climatico, se l'aumento della popolazione, se l'aumento, diciamo, anche del deficit agroalimentare alla scala globale, in particolare nel Mediterraneo, apre nuove prospettive di conflitto, è anche vero che potrebbe aprire invece nuove prospettive di cooperazione, proprio perché l'acqua è una risorsa sempre più scarsa, necessita innanzitutto di grandi strategie, di grandi politiche, quindi di politiche a livello sovranazionale. Solo una cooperazione nel settore può dare la possibilità innanzitutto di usare l'acqua in maniera sempre più razionale, quindi risparmiarla sempre di più, sì, visto che tende a decrescere nel tempo. Soltanto la cooperazione può consentire di realizzare grandi progetti di valorizzazione, progetti che possono essere realizzati con il know-how, con i finanziamenti e con la volontà congiunta dei paesi coinvolti e con l'egida delle grandi organizzazioni internazionali. Questo è un aspetto che non bisogna sottovalutare. La Banca Mondiale, che è uno dei grandi finanziatori dei progetti idrici, tende a non finanziare progetti che hanno una valenza conflittuale. Ecco. Allora, il finanziamento dei grandi progetti idrici dipende dall'accordo dei paesi coinvolti in questi progetti. Quindi l'unico modo per realizzare grandi progetti, per avere anche finanziamenti, anche perché si tratta di progetti spesso che hanno un fortissimo, diciamo, impatto economico su questi paesi, l'unico l'unico modo per essere aiutati anche dalla cooperazione internazionale è quello di varare strategie di cooperazione. È stata chiarissima, professoressa. La metto alla prova perché un ascoltatore ci fa una domanda difficile e confesso di non avere la risposta. Stefano da Mantova dice: quest'anno il costo del cotone egiziano è aumentato. È possibile stabilire una relazione tra questa guerra dell'acqua di cui abbiamo parlato e un aumento ulteriore del costo del cotone egiziano, secondo lei? Ma sicuramente è da porre in... Le due cose sono collegate, nel senso che l'Egitto fa i conti con una serie di colture tradizionali, quale quella del cotone, che hanno un elevatissimo fabbisogno idrico. Nello stesso tempo ha un deficit agroalimentare che le impone di mettere a coltura nuove aree. Quindi il problema di una risorsa scarsa che deve essere dipartita tra i diversi settori produttivi e rispettando quelli che sono i diversi bisogni di questi paesi, sicuramente è un dato che caratterizzerà sempre più le politiche idriche dei prossimi anni. Una risorsa scarsa è anche una risorsa che ha un costo sempre più elevato e che quindi va a incidere sul costo finale dei prodotti, in questo caso sul costo finale del cotone. Grazie professoressa Ferragina per essere stata con noi, una buona giornata, un buon lavoro. La ringrazio, arrivederla. Dall'acqua al fuoco, perché vi porto in Russia, l'avete sentito anche dai nostri GR, le fiamme continuano a preoccupare il governo russo, però cosa sta succedendo in queste ore? Succede che mentre Putin si fa ritrarre dalle telecamere, dai fotografi, con il suo solito atteggiamento muscolare, alla guida addirittura di un aereo antincendio, mentre comunque il paese denuncia una difficoltà nel gestire l'emergenza degli incendi, cosa succede? Beh, succede che Mosca va a mettere dei missili in Abkhazia. Allora, l'Abkhazia e Ossetia sono due regioni separatiste. Forse ricorderete, se qualcuno ha seguito le vicende russe, il 7 agosto del 2008 la Russia invase l'Argeorgia per difendere proprio questi due elementi separatisti. Allora, cerchiamo di capire meglio che cosa sta accadendo partendo da questi famigerati missili, gli S-300, che sarebbero stati già posizionati in Abkhazia. Andrea Nativi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Andrea Nativi, direttore di rivista italiana Difesa, esperto di questioni militari, adesso mi spiega cortesemente che cosa sono i missili S-300. I missili S-300, che la NATO chiama SA-10 Grumble, sono dei missili antiaerei. Sono dei missili molto efficaci e molto potenti. Un missile di questo pesa una tonnellata e mezzo, una tonnellata e 8 al lancio, e nelle versioni più recenti ha una gittata massima di circa 150 chilometri. È una mazza 7, perché un missile del genere è l'equivalente del Patriot americano e quindi riesce ad abbattere a grandi distanze, ad alta quota, ma funziona bene anche a bassa quota, qualunque cosa voli, che sia un elicottero, un aereo o un velivolo senza pilota. Quindi ha un raggio di proiezione notevole, per di più è montato su rampe mobili. Ecco, fra l'altro Andrea, vedo proprio delle foto delle agenzie questi grossi camion su cui sono posizionati gli S-300, che appunto consentono la mobilità di queste armi. Il fatto che siano posizionati in Abkhazia, che è lì sulla costa del Mar Nero, che cosa vuol dire? Cioè, questi missili dove possono arrivare? Perché Tbilisi ha lanciato un allarme e ha detto: attenzione, perché la minaccia è anche verso la NATO. Ecco, questo diciamo pure che è il solito escamotage di Tbilisi, perché la Georgia cerca di internazionalizzare ogni suo confronto con la Russia. In realtà gli SA-300, la NATO li conosce benissimo, sono presenti sia nelle repubbliche ex sovietiche SCSI sia nella Russia, e non è un problema questo tipo di missile, non è un problema, ce li abbiamo anche noi, gli equivalenti occidentali ce li hanno loro, non è un missile destabilizzante, anche perché di per sé è un missile difensivo, ovvero sia serve ad impedire che un aeroplano nemico violi il tuo spazio aereo e entri a casa tua. In realtà, mettendolo in Abkhazia e considerando il raggio d'azione del missile, i russi da lì possono battere e coprire buona parte dello spazio aereo georgiano, ma è un problema della Georgia, non è un problema della NATO di per sé, e grazie al cielo la Georgia non è nella NATO. Per quanto riguarda l'Ossezia, non sembra che metteranno gli S-300, non hanno ancora chiarito cosa metteranno, ma il concetto è lo stesso. Oggi, Andrea, la stampa riporta un secondo tipo di missile, lo Zelin. Scusami, ma Zelin è il nome del generale. Hai ragione, ho assolutamente letto di fretta e ho letto male. Stavo attribuendo il nome del generale a un missile. Magari lo faranno se avrà successo. Sì, come Kalashnikov, no? Ho fatto un po' un'operazione, chiedo venia. Non c'è problema, ma non sanno ancora cosa mettere. Ora l'S-300 è anche un missile. Chi ha visto le foto dei camion si rende conto che è un mostro questo sistema, ma ce ne sono altri più efficaci, più piccoli, con gittata minore. C'è anche da dire che è vero che la Russia con questi può controllare gran parte dello spazio aereo georgiano, quindi non solo difendere Abkhazia, ma andare anche eventualmente, in un caso di conflitto, a sparare di là. Sì. Ma c'è anche da dire che se tu stai conducendo operazioni aeree, come è accaduto nel 2008, considerando che la Georgia ha gli stessi aerei della Russia, prima di mettersi a sparare missili è meglio stare attenti. Tant'è vero che nel 2008 i missilisti russi più volte abbatterono aerei russi. Quindi, insomma, quindi, è un'arma potente ma da usare con cautela. Quindi tu dici, Andrea, attenzione al fuoco amico, questi missili in Abkhazia sono una prova di muscoli che fa la Russia, come spesso fa, e guarda un po', succede proprio mentre la Russia è avviluppata dal fumo, insomma, magari, come dire, l'opinione internazionale è anche un po' distratta da altri eventi. Sono mosse, sono strategie che vengono spesso utilizzate. Grazie Andrea per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro. A voi. Allora, siamo quasi pronti per dare un'occhiata al mappamondo che gira e alle sue notizie, non prima di averne letta una. Proprio adesso è uscita un'ANSA da pochissimo: gli attentati di Kampala, ricordate, l'attentato rivendicato dal Shabab, sarebbero stati arrestati i responsabili, lo ha annunciato da adesso, da pochi minuti, il capo dei servizi di informazione militare ugandesi, che ha presentato alla stampa 4 sospetti. Ma adesso giriamo il mappamondo. WhatsApp. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. Allora, ve ne avevo accennato ieri, volevo tornare sul tema tensione Spagna-Marocco, perché Rabat, ve l'ho detto, il Mohamed IV ha fatto piovere una pioggia appunto di lamentele su Zapatero, denunciando comportamenti razzisti degli agenti di polizia spagnoli alle frontiere di Ceuta e Melilla. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di due enclave storiche, Ceuta e Melilla, due enclave spagnole in territorio marocchino, che sono letteralmente prese d'assalto ogni giorno dai marocchini, che vanno quotidianamente a vendere, a fare business, a fare commercio, per poi rientrare in territorio marocchino. Essendo due gemme d'Europa incastonate lì in territorio africano, da sempre, come dire, hanno solleticato gli appetiti di quei migranti che volevano raggiungere in Europa. Questa cosa ebbe un freno nel 2005, quando la Guardia Civile sparò sui migranti e ne uccise parecchi, però continuamente, come dire, Ceuta e Melilla esercitano la loro forza di attrazione verso i migranti, sia marocchini che subsahariani. In particolare, l'oggetto della contesa sarebbero dei comportamenti appunto aggressivi da parte della polizia verso i marocchini, e degli uomini marocchini che non riconoscerebbero l'autorità delle poliziotte spagnole. La realtà è che da anni ci sono tensioni su queste due enclave, e quello che è un retaggio oramai coloniale, insomma, il Marocco vorrebbe risolverlo. Ci sono forti movimenti marocchini che chiedono la restituzione di queste due ultime gemme spagnole in territorio africano. Libano. Un tribunale militare ha condannato a morte un uomo accusato di essere una spia di Israele. Con la stessa accusa un altro uomo è stato condannato a 20 anni di carcere. Lo ha riferito il quotidiano L'Orient Le Jour. Giorgia Bibi Haddad è stato condannato alla pena capitale per aver trasmesso all'intelligence israeliana informazioni riservate su militari e personalità politiche in Libano. La condanna a 20 anni è stata invece inflitta a Ziad Jalil Saadi, un collaboratore di Haddad. E infine, ancora Medio Oriente, flottiglia, la Corte Suprema israeliana ottiene una donna nell'inchiesta. L'Alta Corte di Giustizia di Israele, che funge anche da Corte Suprema, ha imposto oggi allo Stato di discutere entro il 29 agosto l'inclusione di almeno una donna al fianco dei 5 membri della commissione d'inchiesta sul blitz della Marina alla flottiglia di attivisti filo-palestinesi il 31 maggio scorso. Lo ricorderete, durante il blitz 9 passeggeri di una nave turca, la Mavi Marmara, furono uccisi. Questa era l'ultima notizia del WhatsApp. Do una scorsa rapidissima alle ultime agenzie. Ce n'è un'altra effettivamente interessante in tema di immigrazione. Vi porto in Francia, dove Sarkozy e il ministro dell'interno e dell'immigrazione Éric Besson lo avevano promesso, avrebbero usato il braccio di ferro contro i Rom. Ebbene, più di 40 campi rom illegali sono già stati sgomberati nel giro di una quindicina di giorni, da quando cioè il governo ha cominciato a mettere in pratica la linea dura promessa. E allora, anche per oggi, Nessun Luogo è Lontano volge al termine. Non mi resta che ringraziare e ricordarvi che Valeria Coffaro era con me in redazione a preparare il programma, che in regia c'era Fabio Cantadori. Noi ci risentiamo domani alle 13:15 qui su Radio 24 e ricordate che Nessun Luogo è Lontano.